mi ha sempre sgridata, mi ha inquadrata, mi ha indirizzata, sì. Poi c'è stato un periodo, poverino, dove le cose andavano male e non ha avuto magari soldi per pagarmi lo stipendio immediato alla fine del mese, magari ha rimandato. E c'è stato qualche diverbio, vabbè. Ma sì, ma perché scusi, lei nella sua redazione non ha mai avuto un diverbio col suo editore? No, ma certo, non c'è. Ma no, non volevo entrare in questo particolare. Confermato. Ho la fortuna di non avere il tetto finto come il mio, come scrive il libro. Eh no, non ce l'ho, quello non ce l'ho, non so se sia un bene o un male, però non ce l'ho, che devo fare? Senta, siamo a Paradiso, però le voglio chiedere una cosa. È vero che vi siete sentiti quando lui è stato nominato ministro e gli ha detto di non parlare più? No, io l'ho chiesto io ieri mi sono svegliata senza sapere niente e a un certo punto mi squilla il telefono da morire con tutti i giornalisti. Guardate che solo con voi ho parlato, No, lo so, la ringraziamo per questo. Ho parlato solo con voi. E allora dico, ma che cos'è questa cosa? Io mi sono spaventata. Perché ho detto, ma Dio mio, ma poverino, vado su internet e seguo i blog che sono veramente vergognosi. Come ripeto, siamo in Italia. Come il mio amato premier, che non hanno lasciato assolutamente lavorare, adesso vorrebbero fare così anche con lui. Mi è molto berlusconiana lei. Comunque, vabbè, va bene lo stesso. È veramente una signora, però possiamo ma dire chiaramente, che la partita chiaramente, non sono certo. Guardi, io poi sono democratico. No, però, signora Paradiso, eravamo rimasti a una cosa. Sente squillare il telefono, anche Romani l'ha chiamata? Guardi, io ho chiamato, ha risposto la segretaria, che è un'amica mia di tanti anni, che era lavorava lì al TV7 Lombardia. Ho detto, Denise, sta succedendo questo e questo e questo, sono terrorizzata, cosa devo fare? Io non sono certo la D'Addario e non sputo nel piatto dove ho mangiato, non ricatto nessuno perché non ho niente da ricattare, non ho niente da dire, sono spaventata. E lei mi ha detto, il ministro adesso occupato, e io gli ho detto, Denise, ti prego, dia Paolo per cortesia, appena un attimo di libero, se può chiamarmi e darmi una parola di conforto, perché mi viene da piangere. Ma perché doveva confortarla? Per tutte quelle cose che lei aveva letto? Ciarpame che è uscito sulla rete, ha ragione. No, per le diffamazioni a questo povero uomo, che tra l'altro è veramente una persona intelligente, che per l'Italia può fare tanto, solo che siamo in Italia. E poi che è successo? Vi siete sentiti o no? Tutto ciò che è intelligente in Italia. Ecco, ma vi siete sentiti dopo o no questa sua telefonata alla segretaria? Sì. Non ho capito, signore. Dopo questa telefonata alla segretaria, vi siete sentiti anche lei e il signor Romani? Sì. Che vi siete detti? Se si può sapere. Io non l'ho chiamato ministro perché mi sembra. Io ho un bel ricordo di lui nei corridoi della televisione, dove lui, quando c'era quei giorni in cui ero più bella di altri giorni, mi diceva: come sei carina oggi, che bello il tupè che hai messo. Perché io mi vestivo anni 70, anni 80, sa? Quando si fanno le dirette tutte le sere, anche una presentatrice deve cercare di inventarsi un look. Poi io ero in una televisione povera, non ero in una televisione ricca, quindi mi truccavo io, portavo io i miei vestiti, venivo giù con mio marito e tutto. Allora, ho detto, Paolo, scusami se ti disturbo, sta succedendo, mi fa, tesoro, non ti preoccupare. E gli ho detto, guarda che io, non sono io che sto scrivendo quelle cose, perché per l'amor di Dio lo sai che io ti voglio tanto bene e tu mi hai dato lavoro quando io avevo bisogno di lavorare, perché io avevo finito bruscamente. E lui ci ha creduto che non era lei a diffondere queste voci, eccetera, sì. Certo, il signor Paolo Romani a me mi conosce molto bene, perché mi ha studiata molto a fondo. Io ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per lui per 2 anni e ringrazio Dio di averlo conosciuto.